Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buonasera. L'indice prevede di parlare di fotografie, di concavo e convesso e di pasta e ceci, un indice molto semplice. Ah!